È assolutamente evidente che ci sono dei materiali che non hanno assolutamente niente a che fare con la poesia. Se noi andiamo nello scaffale di poesia e abbiamo in mente tutto quello che la scrittura di ricerca ha fatto in questi ultimi 25-30 anni, anche non volendo considerare tutto ciò che arretra fino al 1961 e forse anche prima, se noi appunto consideriamo tutto questo e mettiamo insieme tutti i materiali che in questi appunto quasi 30 anni sono usciti, e ovviamente anche atti di convegno, saggi, non soltanto scritture e materiali verbovisivi. Possiamo costituire forse non un solo scaffale, anche più scaffali. E ci rendiamo abbondantemente conto che il fatto di non trovare queste cose all'interno dello scaffale della libreria generalista, indicato e segnato con l'etichetta poesia, è normale. È logico perché non è possibile continuare a pensare di allargare all'infinito la scatola poesia per farci stare tutto quello che poesia non vuole neanche più essere. E l'idea è che, almeno la mia idea, è che di fatto nello scaffale che invece riguarda le scritture aslegge, fuorilegge appunto, e strane, non identificate, non identificabili e transgeneriche, molto probabilmente possiamo includere cose molto diverse, non so, ad esempio le note di Duchamp, oppure gli scritti anche in prosa di Carmelo Bene, e anche il diario di Pontormo, o gli scritti di Rothko, le pagine critiche di Emilio Villa sugli artisti, e ancora molto molto altro. Ovviamente con attenzione a non creare una sorta di, come dire, diciamo, altro genere letterario. Qui si parla proprio veramente di uno scaffale meticcio, contaminatissimo, dove scritti d'arte, penso anche a fotografie inconscio tecnologico di Franco Vaccari o molti diversi dei libri di Roland Barthes, per esempio il Roland Barthes di Roland Barthes, per dirne uno, ma sicuramente anche L'impero dei segni. Ecco, tutti questi libri, a mio avviso, configurano una costellazione molto dispersa, una nebulosa abbastanza poco inquadrabile e definibile, e che proprio nell'indefinizione ha il suo punto di forza. E chiaramente nel momento in cui, grazie alle neoavanguardie, il Novecento ha allargato e esteso quasi all'infinito i confini di ciò che è definibile poesia, fin qui ha trovato sempre ricetto e ospitalità nello scaffale di poesia, appunto. Però è ovvio che appunto un testo come Fotografia inconscio tecnologico teoricamente dovrebbe starne fuori e rimanere soltanto nell'ambito dell'arte contemporanea o appunto della fotografia, ma è sbagliato, perché è un testo che ha profondamente a che fare con la sperimentazione letteraria, con la ricerca letteraria, e quindi andrebbe di fatto inserito in questo scaffale, che non è detto debba necessariamente avere un nome identico per tutte le librerie. Ci sarà la libreria che vorrà intitolarlo alle scritture anomale, è un'altra scrittura fuorilegge, appunto, o in qualsiasi altro modo. Ecco, sicuramente avrebbe molto più senso, e anche merceologicamente, detto in maniera molto banale, rispetto a quello che si fa adesso, disperdendo quello che invece è una risorsa dell'immaginario, un nucleo, una vera e propria galassia che esiste di fatto, ha un suo peso, e come tutti i corpi celesti, spesso mi capita di usare questo esempio, curvano lo spazio e di conseguenza fanno sì che anche i lettori più attenti possano, attenti alla poesia, voglio dire, possano per un attimo volgere lo sguardo verso quello che poesia di fatto non è più, e forse è anche giusto e proprio, opportuno anche lessicalmente, iniziare un corso diverso, appunto, dal punto di vista dei librai. Perché no?